cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Percussione terza, se ne va, grande accelerazione, rete dal meraviglioso, ancora lui, La Pace, un fenomeno. Ti senti sempre più leader di questa squadra in campo? No, io mi sento uno di più del mio compagno, sempre l'ho detto, che mi dà la fiducia sono mio compagno, il mister, así que io trato dentro del campo da dar tutti para loro. E poi abbiamo Tevez che Dio ce lo mantenga nelle migliori condizioni. E poi hanno Tevez che oggi ha fatto un gol meraviglioso. Se avete notizie dello stato di salute della traversa dello Juventus Stadium ci chiamate 800 24 00 24 perché ha cercato di demolirla. Carlo. Sì, ha cercato di demolirla, non c'è riuscito, la traversa si è incrinata e la palla è rimbalzata alle spalle di Perin che poi è uscito. A te avete anche sbagliato un rigore, la manna, sì, la manna è il mio portiere mito di riserva del Genoa. Se voi vi dovete giocare la vita, il posto di lavoro, sì, tutto con un solo tiro, una sola parata, sul calcio di rigore, chiamate la manna, possibilmente dalla panchina, perché è la seconda volta che lo fa. L'altra volta con la Roma era uscito dalla panchina, aveva parato il rigore, stavolta una decina di minuti ci ha messo, si è dovuto scaldare, però poi il rigore a Tevez l'ha preso, la Juventus ha vinto 1-0, non vi leggo neanche la classifica, più 17, ma tanto la questione scudetto è ampiamente chiusa, e la Roma e tante altre giocano per il secondo, terzo, quarto e quinto posto, ma abbiamo tempo fino alle 19 per parlarne. 800 24 00 24. Vi annuncio anche che dopo, più tardi, abbiamo un azzurro che sta per andare a Coverciano, una delle grandi sorprese di queste convocazioni. Lo sentiamo Allegri? C'è Allegri? Sì, Allegri in diretta ai microfoni di Sky. Gli arbitri, l'altro allenatore, non è... quello momento lì credo che sia giusto lasciare i ragazzi a quello che hanno fatto in campo, a loro meriti, perché credo che alla fine, dopo tutto questo che stiamo facendo, gran parte del merito è dei ragazzi, e dire che con i ragazzi, con la società, che credo che sia una base importante e solida, stiamo facendo un'ottima stagione. Ora cerchiamo di finire al meglio questo campionato e soprattutto cercare di raggiungere questa semifinale di Champions, che sarebbe un risultato straordinario, e poi magari chissà cosa succederà, nel calcio succedono tante cose. Nel frattempo Allegri, l'aggiorno sui diretti avversari, il Monaco è sceso in campo da meno di 10 minuti, al quarto minuto aveva già sbloccato il risultato sul campo del Ren, così tanto per preoccupatissimo Allegri. Guarda, per questa notizia che dice che il Monaco ha sbloccato contro il Reims, c'è chi aveva dubbi che oggi la Juventus avesse voglia, fosse reattiva fisicamente, avesse l'approccio giusto, non fosse ubriaca, come ha detto ieri Allegri. Mi sembra dubbi spazzati via, non sono anche se è stata una meravigliosa amichevole. No, sì, ma non sono queste le caratteristiche della Juventus, che ne dica Conte. Su quei discorsi un po' così superficiali, avessero avuto una cattiveria che avevamo noi, avrebbero avuto più 20 punti in campionato, chi se ne frega. Cioè, è una Juventus che ha vissuto sull'onda lunga e sull'adrenalina probabilmente della partita di Dortmund. È vero, questa con il Genoa è una partita. Sì, si è visto anche qualche disattenzione dietro, il Genoa poteva anche farlo il gol, in questo Juve un po' diversa, tra parentesi, tanti cambi anche, Juve che oggi ha 17 punti di vantaggio, tutto da dimostrare che la Roma questa sera vincerà Cesena, a proposito dei 20 punti in più di Conte, mi sembra che Allegri si stia togliendo più di un sassolino, poi parleremo della questione europea, però vi do due numeri: con questa vittoria Allegri quota 67 dopo 28 giornate, soltanto l'ultimo Conte, meglio, perché il primo e il secondo Conte con la Juventus erano abbondantemente sotto il par di Allegri. Sì. Abbondantemente. Ma sì, ma è solo questione di numeri. Allegri, io continuo a ripeterlo, sta vivendo la stagione della sua consacrazione, perché se è vero che aveva vinto lo scudetto con il Milan, poi l'ultima stagione quella prima dell'esonero naturalmente, aveva fatto un grande campionato. In questa stagione sta vivendo la sua consacrazione, perché l'ha gestita con intelligenza estrema, senza forzare, con grande furbizia, sfruttando il lavoro di Conte, poi pian piano mettendoci del suo, recuperando i giocatori, recuperando le loro energie mentali, nervose, la loro voglia di giocare senza stressarli più di troppo. Un punto in più, un punto in meno non fa differenza. Sì, un normalizzatore rispetto alla Juve. Ma certamente. Un po' sopra le righe di Conte, poi l'abbiamo sentito, ha detto noi adesso dobbiamo chiudere bene il campionato. Ma lì insomma prendiamola come una battuta, e poi ha detto poi dobbiamo cercare di arrivare alle semifinali, poi il calcio regala tante sorprese. Io lo voglio dire, ma lo dico da qualche mese, io non riesco a capire, mi dovete convincere che questa Juventus non sia costruita per arrivare in fondo alla Champions League. Io francamente faccio fatica. Ma ci vuole molto culo. A tutto. Ha una rosa, sì. Ha un attaccante che in questo momento è forse uno dei migliori in Europa, certamente, ma lo dicono anche i numeri, no? Credo, cioè, sarebbe titolare ovunque Tevez. Ma certamente, cioè 8 gol in 8 partite Cristiano Ronaldo, 7 Messi, 6 lui, sta vivendo, lo dice Paolo Condor, che lo conosce bene, sta giocando il miglior calcio della sua carriera, quindi è davvero uno degli attaccanti, dei 5 attaccanti più forti d'Europa in questo momento. Poi vedi le rose di Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona e ti rendi conto che queste hanno qualcosa in più. Poi sì, serve molta rendi fortuna. Conto che una di queste già uscirà ai quarti di finale. Barcellona, poi c'è il derby di Madrid. La Champions è tante cose, io lo dico agli amici a casa, 800-24-00-24. Voi dovete convincermi che la Juve non sia una delle favorite per la Champions. No, ma diciamo che questa Juventus, possiamo dire, non ha, dal punto di vista della rosa, non ha nulla in meno rispetto qualitativo rispetto al Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid, che sono stati gli ultimi due finaliste. Questo lo possiamo dire? Sì, possiamo dirlo. Intanto 2-0 del Monaco a Reims, Allegri, nel primo quarto d'ora. 8-0-0-24-0-0-24. Poi arriva un sotto grande ospite, traffico. C'è un amico che scrive, Michele da Martignano, ha scritto un sms 349-238-6666 per dire che i rigori non si parano, cioè significa che i rigori si sbagliano. Però la mano resta un mito. Uno che entra due volte. Qualche volta si parano. A freddo questo e para. L'ha parato. Questo l'ha parato. Ha qualcosa dentro. Fabrizio Ravanelli, ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio. Ha qualcosa dentro un portiere che entra due volte dalla panchina e para due rigori. No, non è solo fortuna, beh, no? Non credo che sia fortuna, se è il secondo caso, quindi credo che sia la manna abbia dimostrato che veramente, per quanto riguarda i rigori, sia uno dei migliori portieri. Mi aiuti a capire perché questa Juve non ha tutto per vincere la Champions? Io ho lanciato anche la sfida a casa, 800-24-00-24, io lo dico da un paio di mesi e a maggior ragione ne sono convinto in questo momento di grande forma. A tutto o no? Io credo di sì, credo che sia una delle squadre che nessuna squadra cosiddetta fortissima, come può essere il Bayern, il Real, il Barcellona, vogliano incontrare la Juventus. La Juventus credo che sia una squadra pronta a arrivare in finale e se ne giocherà da Juventus con umiltà, con determinazione, come ha fatto in questo ultimo periodo e soprattutto come ha fatto con il Borussia Dortmund. Una squadra che con il rientro di Barzagli, giocando a tre, credo che possa riuscire veramente a subire poco l'avversario, quindi sono convinto che si giocherà da Juventus con quell'umiltà che contraddistingue sempre una grande squadra, potrà veramente essere la sorpresa della Champions League. Fabrizio, dimmi come la pensi su due cose. Io sostengo che questa per Allegri è la stagione della consacrazione, dopo quanto aveva fatto al Milan sta facendo la stagione perfetta, secondo me, dal punto di vista facendo della... anche meglio di Conte. Sì, ma al di là dei confronti che interessano solo a Conte, io credo, molto meno ad Allegri, sta dal punto di vista della gestione del gruppo e della gestione tecnica e tattica e tecnica, come ama ripetere lui, perché insiste sulla questione della tecnica, stia vivendo la stagione della consacrazione. E Carlos Tevez in questo momento è, non so, dimmelo tu, tra i primi 5 attaccanti d'Europa? Dove lo mettiamo? Assolutamente sì, è qualcosa di straordinario, perché onestamente, oltre a fare gol, è un giocatore, un leader di una squadra che nei momenti top della stagione ha sempre preso per mano. Quando è mancato lui è sempre mancato qualcosa alla Juventus. Lo ha dimostrato anche in queste partite, che si è fatto sentire, nelle partite importanti dove il leader, dove il campione si carica di responsabilità e trascina la squadra. Lui lo ha fatto con il Dortmund, l'ha fatto anche oggi, e quindi credo che sia un giocatore, uno dei primi cinque in Europa assolutamente, anche perché oltre a fare gol è sempre un giocatore che fa bene molto il raccordo tra centrocampo e attacco, un giocatore che viene a prendere la palla, che si muove tanto, è il primo a portare pressing, quindi è un bomber un po' atipico, perché partecipa veramente al gioco, è un po' come Diego Costa, un giocatore veramente che dà fastidio a tutta la difesa avversaria. E poi segna tanto, io vi do due numeri così completiamo il discorso su Tevez. Con il gol di oggi, quota 24 stagionali in Italia, Higuain, che è il massimo specialista dei gol, ne ha fatto uno in meno, e non fa certo il lavoro che fa Tevez in campo. Prego Fabrizio. Io credo che al di là di tutto Tevez ha fatto sempre bene, ha dimostrato veramente il suo valore, però io credo che la sua consacrazione l'ha trovata anche a Torino, ha trovato un ambiente giusto. È maturato molto, credo che anche questo sia merito, al di là di tutto, anche di Antonio Conte, della società, di tutti i compagni, però si è sentito importante. Al di là, lui ha giocato nel City, ha avuto qualche problema nel Manchester United, ha avuto qualche problema con Ferguson. Io credo che qui al Juventus abbia trovato un ambiente ideale per lui, dove riesce a giocare e a essere e a sentirsi veramente importante, essere un giocatore che la squadra non può fare meno di lui, ed è per questo che anche nei momenti importanti, come è stata l'ultima settimana, si è caricato di responsabilità e ha trascinato la propria squadra al successo. Sì, è andato subito nei panni di leader, ma è diventato naturalmente leader dal giorno numero uno. Lui che non lo è mai stato, perché giustamente ricorda Fabrizio, anzi in passato è stato anche un giocatore che ha avuto qualche problemino di spogliatoio, l'ha creato, al di là della lite con Mancini è sempre stato considerato uno abbastanza complicato da gestire, cosa che a Torino in questi due anni non abbiamo mai visto. Viene da dire, peccato che abbia in testa tra 13-14 mesi di tornare in Argentina per chiudere la sua carriera. Non ci credo. È un giocatore, segnalo che i tifosi della Juventus sono un po' arrabbiati con Conte per la convocazione di Barzagli, oggi autore di un'ottima partita, ma che rientra dopo 8 mesi. Scrive un amico: la convocazione di Barzagli per un amichevole è una vergogna. Schermaglie dialettiche. No, ma volevo sentire Ravanelli su Allegri. Su Allegri, sì. Allegri, onestamente, io devo dire che è arrivato in punta di piedi alla Juventus, ed è questo che ha fatto fare, secondo me, il salto di qualità a questo ragazzo, perché lui è arrivato sotto tutto, con tutto lo scetticismo della critica dei tifosi juventini, ed è stato intelligente per questo, perché lui ha messo, come si dice, tutto in chiaro, dicendo che ripetere e fare meglio di Antonio Conte non era facile, quindi è entrato in punta di piedi, ha dato responsabilità a tutti i giocatori, forse ha cercato anche di pressarli meno sotto il punto di vista atletico e magari in certi momenti della partita, nel poter portare sempre quel pressing asfissiante che poi durante la stagione può pagare, perché una squadra che gioca un calcio come quello magari che giocava totale di Antonio Conte può portarti magari anche alla logorazione a un certo momento, no? E lui è stato bravo, perché non dimentichiamoci che ha sofferto certe partite, come la partita con il Sassuolo, con l'Atalanta, non è stato c'è stato un momento di appannamento anche fisico a un certo punto della stagione. Lui invece ha sempre detto che la squadra sarebbe stata pronta nel momento topico della stagione, è importante, e questo è dato merito, e credo che si sia comportato veramente da grande, non solo dico grande allenatore, ma da una persona intelligente, perché anche nei momenti critici e dove magari è stato chiamato in causa da certi allenatori come Garcia o Benitez, non ha mai fatto una replica, è stato sempre umile, non ha risposto mai, e credo che questo abbia dimostrato anche la sua intelligenza, la sua educazione, e quindi credo che sia stato premiato anche per questo. Io dico sempre che nella bocca del campione c'è sempre l'umiltà, e nella bocca del mediocre c'è sempre la presunzione. Qualche sassolino, Fabrizio, se lo toglie dalla scarpa anche il buon Allegri, che noi stiamo descrivendo giustamente così. A fine anno se lo toglierà. Sì, ma no, ma ha già cominciato. Giusto, magari aspetta, vediamo se riusciamo a recuperare quello che ha detto ieri, perché ieri gli hanno riproposto, ad esempio, di Sassolini la storia dei 10 euro per mangiare nel ristorante da 100. Beh, questa è una risposta da Allegri. Vediamo se la recuperiamo, poi mi piacerebbe sapere cosa ne pensi anche tu, Fabrizio. Quindi si può dire che chi ha detto in passato che non ci si poteva sedere a un ristorante da 100 euro per quello che riguarda la Juve, ma anche per le altre squadre, si può avviare, diciamo, a delle problematiche economiche con altre cose, come avete dimostrato voi. Ma io, come ho detto prima, credo che nelle cose bisogna fare un passetto alla volta e bisogna crescere piano piano. Forse non riusciremo a mangiare piatti costosi, ma sicuramente credo che le squadre italiane possono sedersi tranquillamente in un ristorante costoso, ma credo che questo sia il primo punto da dove il calcio italiano debba e possa ripartire. E questo è Allegri ieri, Fabrizio, perché poi è uno che anche da buon toscano non si tira indietro davanti alla polemica. No, assolutamente no, però anche... Ha ragione. Sì, no, ma anche credo che abbia risposto con molta intelligenza, e ha lanciato e ha tolto qualche sassolino anche con molta leggerezza, e quindi questo fa testimoniare che è un ragazzo anche molto intelligente. E credo che da qui alla fine di Sassolini si toglierà, perché se la Juventus è questa, di questo fine stagione riuscirà a tirare fuori il meglio di se stesso, perché io dico anche che la Juventus ha giocato quasi un campionato, una stagione senza Samoa, senza Barzagli, i giocatori fondamentali nello scacchiere della Juventus, perché Barzagli abbiamo visto quanto sia importante. È un giocatore fondamentale. Io credo che tre difensori come Barzagli, Bonucci e Chiellini, vorrei fare un confronto, magari possiamo togliere il Bayern Monaco, poi vedere il Real Madrid, vedere il Barcellona. Non credo che abbiano dei difensori così bravi nella fase difensiva, con una grossa personalità. Io credo che ci siano anche delle grosse lacune, quindi sono convinto che la Juventus possa veramente dire la sua anche in Champions, dove anche a livello difensivo, con il rientro di Barzagli, ha fatto un passo da gigante in avanti. Grazie Fabrizio. Ciao Fabrizio, grazie. Grazie a voi. Ciao. Buona domenica. Fabrizio Ravanelli, sentito cosa ha detto? La Juve può andare in fondo se c'è qualche problema in mezzo, l'infortunio di Pogba. Monaco non è un problema. Monaco vince 2-0 a Reims, 8-0-0-24-0-0-24, se rappresenta un problema. Se ci volete dire qual è il problema, noi siamo qui e aspettiamo. Simone da Verona, Simone. Sì, buonasera, volevo parlare proprio di Juventus. Eccoci. Riagganciarmi a quello che ha detto Ravanelli. Prego. Tanto a mio avviso, mi spiace per Ravanelli, probabilmente si sa che ha giocato nella Juve, quindi è stile juventino, però la Juve finora in Coppa Campioni, possiamo dire che ha avuto anche un po' di fortuna. Sì. Monaco non è una squadra difficile da affrontare, e comunque il Borussia Dortmund, qualcuno fosse ancora idea di Borussia Dortmund due anni fa, ma non c'è più Gozzi, non c'è più Lewandowski. Sì, però questi discorsi sono belli da fare il giorno dopo che li hai eliminati. Prima non c'è niente di scontato. Questo è vero, però io ho ancora negli occhi di due anni fa, Juventus-Bayern Monaco, in cui il Bayern Monaco, anche a Torino, non ha giocato per nulla, e quando ha deciso di accelerare ha fatto subito due gol. Sì, ma anche, però anche al Bayern non è mica andata male fin qui in Champions. Si è preso lo Shakhtar Donetsk e ha anche pareggiato in trasferta, poi gli ha asfaltati a Monaco. Adesso al Porto anche a loro, serve anche quello. Sì, però penso che la Juventus manchi ancora qualcosa, e tra le altre cose soprattutto dietro, perché è vero che in Italia la Juve sarà forte, ma voglio vedere i tre difensori giocare dietro. Sì, ma siamo qui, secondo me se c'è qualche problema in mezzo, e l'ha dimostrato anche la partita di Dortmund, dove si è fatto male Pogba, Pirlo non c'è, e comunque in questa stagione c'è intermittenza, e Allegri ha dovuto cambiare il modulo perché non ce ne sono altri a quel livello. Forse il problema è lì, non credo tanto nella fase difensiva. Che succede? Complimenti. Oh, Arrigo. Buonasera, buonasera Arrigo. Se Ribbi ora si smettessi di parlare del fonduschiena di Arrigo, io sono troppo intelligente, io ho avuto Rijkaard, non ho avuto culo. Beh, invece di Allegri, un po' di fortuna l'ha avuta però Arrigo, di Arrigo. Questo sorteggio che apre alla Juventus le porte della finale di Champions. Beh, finale. Al massimo della semifinale. Sì, Arrigo, però Allegri sta facendo bene, cioè adesso non è che possiamo dire che è soltanto fortunato, è vero, ha fatto sorteggio. Visto oggi Genoa, col Genoa è una bella squadra la Juve, Arrigo, non ho avuto culo. Sì. Allegri invece un giocatore completo, ostico, forse è agnostico. Roberto Baggio, Baggio Roberto, sulla faccia Baggio? Quando usciva dalla gabbia per la ripartenza aveva delle controindicazioni. Mi faceva venire lo stress. Sì, ma cosa c'entra Maggio? No, non lo so. Però ha visto Arrigo oggi Tevez, che bel gol. Poi ne ha sbagliato anche un rigore. Però Tevez è uno dei primi 5 attaccanti. Arrigo del fondoschiena di Arrigo. Il culo di Sacchi non esiste. Esiste il culo di Allegri. Ma non è vero. È stato fortunato in un sorteggio. Esistono le mie melanzane bicazzute. Arrigo, non è che ce l'ha sempre su per quella storia lì che Allegri. Arrigo. Arrigo. E poi senza stress. Ma non risponde. Ricordatevi sempre il mio motto. Quello che vuole. Le opinioni sono come le palle. Sì. Arrigo. Arrivederci Arrigo. Ciao Arrigo. Non risponde. Si ricomincia. Convocati. Entrano in campo le squadre, c'è un silenzio quasi innaturale qui a San Siro. Quasi innaturale. Dispiace. Dispiacciono soprattutto le critiche, non parlo per me stesso, per Silvio Berlusconi che, ricordiamoci, ha preso questa squadra in un'aula di tribunale e l'ha portata a vincere 28 trofei. Certamente 35 punti sono pochissimi, lo sappiamo, voglio dire, non è che bisogna essere grandi, grandi tecnici per capirlo, grandi giornalisti per dirlo, lo capiscono tutti, quindi che sia un campionato insufficiente, lo giuro che lo capiamo anche noi. E fermo Menes, allora va a cercare il destro, giro! Non serve correre con un piede così, orecchio al pubblico che l'aveva fischiato qualche istante prima su una palla non recuperata. Mexes al volo! Milan in vantaggio! La giocata volante di Philippe Mexes, specialista dei gol strani. Cerci che punta la linea di rigore, quasi lo spinge il pubblico. Cerci attaccato a Cepitelli, fischia tagliamento, calcio di rigore. È fuori, eh? Sì, è fuori. Jeremy Menes contro Jelko Berkic. Menes infila la palla in porta, spiazza Berkic, 3-1 per il Milan. Per noi sono 10 finali, dobbiamo farle bene, giocando così come abbiamo giocato a Firenze e oggi, e poi la società deciderà, finché non mi cacciano io sto al Milan tutta la vita. Non so se mi mette più tristezza l'ambiente di ieri di San Siro o gli allenatori e i giocatori che dicono mancano 10 finali, 9 finali, 8 finali, 7 finali. Scene da fine impero, fammi salutare Enrico Currò, collega di Repubblica. Ciao Enrico. Ciao Harry. Ciao. Ciao. Triste, no, ieri sera San Siro? Triste, ma triste come è triste direi da un paio d'anni, perché ora poi si fa naturalmente fatica a ricordarsi tutto, però non è la prima volta che San Siro è vuoto, è la prima volta che gli ultras stanno zitti, o una delle volte in cui sono stati così tanto zitti, però che San Siro nelle partite del Milan, anche in alcune dell'Inter per la verità, comunque sì, c'è una fuga dalla Milano del calcio che è impressionante nei numeri. Questo sì, è da tanto, quindi insomma diciamo che poi ogni tanto ce ne accorgiamo di più, però che il San Siro alle partite del Milan sia triste tanto tempo. Sì, c'è chi ha detto un po' maliziosamente che non serviva lo sciopero degli spettatori, perché è tutto l'anno che il Milan abbondantemente sta intorno ai 20.000 presenti. Ufficialmente ieri sera ce n'erano 30.784, questo recitava Bordero, ma su quelli che avevano pagato. Su quelli che avevano pagato. Un attimo, questo è un mio cavallo di battaglia. Lo so. Allora, fantasma. Siccome, per chi è allenato, l'occhio allenato, a San Siro non è difficile riuscire a capire che non ci sono gli spettatori dichiarati, allora abbiamo deciso di chiederlo ufficialmente, e i dati della questura dall'inizio dell'anno sono dei dati decisamente molto molto più bassi. Ieri sera, tanto per essere chiari, ce n'erano 19.000 scarsi, cioè un po' meno di 19.000. E questo è un dato ufficiale, non è un dato che mi invento io. Quindi, di cui tra l'altro 4.000 circa bambini delle scuole calcio, quindi comunque persone che sono entrate. Sì, che erano state invitate, sono entrate gratis, hanno anche tifato da quello che abbiamo sentito loro. Tanto è vero che c'è una sottigliezza nel dato, nel bollettino che ci è stato consegnato ieri sera. Non c'era scritto paganti per la prima volta, c'erano gli abbonati, 19.000. Erotti, ora il numero lo so, ma devo andarlo a cercare. E gli altri non hanno scritto paganti, hanno scritto biglietti, biglietti 11.000. Questo biglietti mi è parso un po' ambiguo. Comunque, al di là del mascheramento che si fa, il dato di fatto è che ormai nelle partite a San Siro, a essere generosi, ci sono 20.000 persone. Sì, e questo è il segno della decadenza, e vale per l'Inter e vale per il Milan. Tanto io invito gli amici da casa 800 24 00 24 anche a darci il loro podio dei colpevoli di tutto questo, almeno per quanto riguarda il Milan. Ieri mi pare che i tifosi della curva il loro podio l'abbiano dato: la colpa è di Gagliani, Berlusconi sarebbe meglio che investisse, società in mano a Barbara. Io non so quanto ci sia poi di genuino in queste manifestazioni. Però voglio dire che io ne ho un altro di cavallo di battaglia, così come Enrico Currò, ed è questo: la contestazione dei tifosi giallorossi l'altro giorno, che hanno inscenato l'ennesima umiliazione pubblica dei loro ex beniamini. La curva del Milan, che con un comunicato stampa invita a non entrare in quella curva, a non utilizzare merchandising, eccetera eccetera, un comunicato stampa. Dunque, se queste sono associazioni a scopo di lucro non riconosciute, e sappiamo che sono organizzazioni a scopo di lucro, almeno troviamo il modo di fargli pagare le tasse. Sì. Enrico, ma io ho sempre avuto una mia idea sugli ultras e sul fenomeno degli ultras, che non vadano demonizzati in toto, non bisogna generalizzare. Va ricordato che purtroppo, nel senso che questo indica anche la povertà del nostro paese dal punto di vista del culturale, diciamo, in molti momenti gli ultras rappresentano, le curve rappresentano in molte città, anche piccole, il modo di aggregazione giovanile, e non è tutto da demonizzare, non mi piace che si faccia così, perché ci sono anche delle iniziative molto belle degli ultras, che spesso hanno inviato, per esempio quando ci sono le guerre, non è un però modo poi, di dire, però fanno poi davvero. Enrico, aspetta, tante cose arrivo. Che si no, vedono, no, no, che hanno a che no, fare col mondo del calcio, che è il core business, diciamo, di tutto, sono inaccettabili. Un attimo, ci arrivo. Quindi non mi va la demonizzazione in toto, dopodiché è abbastanza evidente che esiste un mestiere non riconosciuto ufficialmente, che è fare l'ultra, ma non l'ultra a tutti quelli che vanno nelle curve, ma ci sono ovviamente molte persone che nelle varie curve fanno di mestiere quello, e quindi ne traggono un profitto. Quindi, come dicevate voi, l'ipocrisia di far finta che questo non esista non è bello, però non mi piace assolutamente, non accetto la demagogia, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, di dire gli ultra sono il male assoluto, gli ultra sono lo specchio della società, eccetera, perché se gli ultra no, non tutti gli ultra, ripeto, fanno a volte quello che fanno. Questo succede perché si è permesso che le curve diventassero delle zone franche, perché si è permesso che all'interno delle curve l'ordine pubblico venisse gestito non dalla polizia o dagli steward, ma dai capicurva, cosa che accade anche oggi, sono con buona pace di tutto quello che raccontiamo. Però scusate, chi è che permette questo? L'hanno fatto le varie questure, l'hanno fatto i club, evidentemente è una situazione che va bene a tutti. Soprattutto i club, che poi fingono di indignarsi. Le stesse persone che fingono di indignarsi e che magari adesso si sentono oggetto delle contestazioni, sono le stesse persone che per anni hanno creato questa situazione, l'hanno tollerata, ne hanno ricevuto i vantaggi, e quindi francamente il pulpito da cui parlano è un pulpito assolutamente inaccettabile. Io l'ho detto prima, bisogna vedere anche di quello che è successo ieri, quanto c'è di genuino, perché poi attenzione, le curve spesso muovono interessi propri e non solo. C'è il traffico, saluto Enrico Currò, grazie. Ciao, Enrico. Enrico, grazie, ciao. Riusciamo a sentire prima del traffico Menez, ieri è Costa Curta su Menez, perché poi voglio capire anche cosa ne pensate voi. Oggi Galliani ha detto Menez è tutto merito mio, ieri sera però c'è qualcuno che l'ha bacchettato. Ti ho visto dopo il primo gol, come dire al pubblico, fare un segno al pubblico, oggi è una situazione un po' particolare. No, ma non era per il pubblico, era per la stampa, perché parlano tanto su di me e sbagliano tanto. Parlano su di me senza sapere niente, quello non mi piace. La trovo di una pochezza disarmante. Ah. Sì, non trovo, uno fa gol, poi se c'è la gola, sono lì i tifosi, i compagni, ecco, io l'ho trovata veramente... Non ti è piaciuto? No. Tutti convocati. Quello era Costa Curta su Menez, ha detto anche non è un campione, non è un campione da Milan. Menez, prima del gol di oggi di Tevez, era capocannoniere, ha detto Galliani è tutto merito mio. Sì, Galliani dice è vero, è tutto merito suo, è stato un grande affare a parametro zero, però non mi sento di dar torto a Costa Curta, perché se Menez è il capo giocatore di un club come il Milan, Houston, abbiamo un problema. Mi fai dire en passant che un tedesco, Degen Kolb, ha vinto la Milano-Sanremo? Così. Diciamo anche che Alonso correrà a Sepang, pare che abbia passato tutti i test medici, ma ne parleremo poi settimana prossima di Formula 1. 800 24 00 24. Tra l'altro io nel podio dei responsabili dello sfascio del Milan in testa non metto Galliani, secondo me in testa c'è chi anche legittimamente negli ultimi anni ha deciso di non spendere più. Ha fatto un grande mercato invernale, perché onestamente destro, Antonelli, sono sì. Poi è arrivato anche Suso che non ha visto il campo. Vabbè, lascia stare Suso, Cerci. A destro non arriva un pallone. Cerci, qualche domanda bisognerebbe anche farla. Sono giocatori della nazionale. Saluto Filippo Maria Ricci, perché poi questa sera noi abbiamo questo problema, questo impedimento, che ci sono 6 partite del campionato di Serie A in contemporanea con il classico. Filippo, buon pomeriggio. Beato te che non hai campionato di Serie A. Io guardo il classico 100%. A proposito, domani ci sentiamo per tutti i convocati, te lo dico subito. Benissimo, pubblicamente. Bene. E complimenti a chi ha fatto il calendario di questa giornata. E non si gioca mai alle 20:45 in Italia. Quest'anno, sì. Questa domenica 6 partite. Tra l'altro, vi racconto come retroscena, che ho parlato qualche settimana fa con chi vende i diritti televisivi italiani nel mondo, che dice: ma io l'ho detto alla Liga Calcio di non mettere in contemporanea i big match nostri con i big match di Real Madrid e Barcellona, perché nessuno ti manderà mai in diretta. Ecco, questa sera è l'esempio, perché questa sera c'è il classico. La squadra deve giocare il miglior partito possibile in tutti gli aspetti, l'aspetto difensivo, l'aspetto offensivo, e soprattutto tenere la personalità, il carattere, per intentare di imponere tu juego con carattere e con personalità. Sì, che è un partito differente al resto, perché è l'eterno rival, perché è il rival più cercano alla classificazione, e perché el hecho de sumar puntos hace que el rival, en el caso de que ganáramos, pues deja de sumar. Nunca he firmado un empate en mi carrera, entonces no lo voy a firmar porque creo que tenemos la calidad para ganar el partido, como también el Barcelona tiene la calidad para ganarlo. Entonces creo que nadie lo va a firmar. Y luego no creo que sea decisivo, independientemente del resultado que se dé para el campeonato de Liga. Quedarán 10 jornadas todavía y con bastantes partidos complicados para los demás equipos, o sea que importante, pero creo que no decisivo. Sei a Barcellona, Filippo, sì. Sì, sì, sono già stato al Camp Nou prima. Due grandi bugiardi, li abbiamo sentiti. Ancelotti che dice non firmo per il pareggio e Luis Enrique, no, ma è importante ma non decisiva. Non decisiva. Insomma, se vince il Barça è decisivo, se vince il Madrid è meno, però il Madrid è chiaro che al Madrid può andare bene il pareggio perché in questo momento il Barça è in un momento di inerzia spettacolare. Hanno vinto 17 partite su 18 e il Madrid si sta ancora leccando le ferite, è un pochino meglio, torna Sergio Ramos, è tornato Modric. La chiave è lì in mezzo al campo, se Bale aiuta, se Kroos riesce a fare un po' di interdizione di più di quello che è nel suo DNA. Lo stesso Cristiano, lì c'è una fascia destra con Messi, Alves e Rakitic che in teoria al povero Isco e a Marcelo li può mettere in mezzo, insomma, se Cristiano non li aiuta. Sì, sì, ha bisogno Ancelotti di fare l'ennesimo miracolo, cioè deve risolvere il cubo di Rubik. Però può essere anche la partita che lo raggi. No, ma vorrei, passando, mandare agli ascoltatori, ai tifosi di Cesena, Roma, Lazio, Verona, sì, Napoli, Atalanta, Parma, Torino, Sampdoria, Inter, Udinese, Fiorentina, che cosa guardano stasera? No, dopo le 18 raccogliamo le risposte. Però può essere anche, Filippo, per il Real Madrid l'occasione per riaccendere la scintilla. Sì, per girare. La frittata, la tortiglia, dare la vuelta alla tortiglia. Dare la vuelta alla tortiglia, sì. E questo devono fare, perché è chiaro, il Madrid è una squadra che sta di nuovo ricercando, ritrovando. Questa è la partita giusta. Se riuscisse a far fuori il Barcellona al Camp Nou sarebbe un colpo incredibile, però ti dico, un pareggio sarebbe comunque positivo, perché nello scontro diretto il Real Madrid resterebbe in vantaggio perché ha vinto all'andata 3-1 e in quasi arriva a pari punti, questo conta. E poi chiaro, il problema è che in Madrid c'è anche l'Atletico Madrid in Champions, 6 derby senza vittoria. Insomma, sì, anche il Barcellona non ha un avversario semplicissimo in Champions, da questo punto di vista tutti e due possono avere qualcosa in testa. Meglio il Paris Saint Germain che il Barcellona più o meno batte regolarmente, o comunque ha battuto l'anno scorso, quest'anno è andata abbastanza bene, che l'Atletico, che è la bestia nera di questo Real Madrid. Lasciamo stare la vittoria della decima, insomma, arrivata al 93esimo, no, per un pelo, il resto qua Ancelotti contro Simeone fatica, però sono una serie di pensieri. Questa è la partita, potrebbe essere la partita della svolta per il Madrid, però potrebbe anche finire male, dopo sì, importante non decisivo, a 4 punti, è vero che il Barcellona c'ha un calendario pessimo intorno alla sfida col Paris Saint-Germain. Sì, però credo che il contraccolpo psicologico sarebbe devastante. Se perde stasera, Carletto certifica che a fine anno torna in Italia. Sì, ma dove va in Italia? Phil. In Inghilterra va. Va via dal Reale, insomma. Florentino Perez si è speso, si è impegnato a dire che anche in caso di una disfatta questa sera non lo manderà via, e questo non abbiamo, diciamo, perché il motivo per non credergli. Però è chiaro che, oddio, se poi dopo vince anche la undecima diventerà poi difficile mandarlo via. E invece secondo me va via lui a quel punto, sì, a testa alta. Guarda, lui, sarebbe la cosa più probabile se vince. Succede in Inghilterra, perché anche il no dipende un po' da quello. Se io se lo vedo andare via, lo vedo andare verso Manchester, non so, United o City. Vedremo, però cominciamo da stasera, ecco. Stasera è una partita che teoricamente, poi sai, nei classici la cosa bella è che ogni tanto succedono ci sono dei risultati clamorosi, il 5-0 in un classico, cioè, succede, non è a parte quello che abbiamo visto della manita no, di Mourinho, ma era già successo più volte. Succedono i 6-2 anche, succede, esatto, di tutto. E noi purtroppo abbiamo Parma Torino da seguire. Ma te la guardi, carissimo tu, Filippo. Te la guardi, vabbè, tu Parma Torino. Per vedere come gioca la squadra fallita. Sì, vabbè, perché al gusto dell'orrido, chi vuol farsi del male, allora evita il classico e guarda Parma Torino. Abbiamo piacere. Il GR noi di Parma Torino. Grazie, va Filippo. Grazie, ciao, a voi, ci sentiamo domani. Grazie, ciao, Filippo, ciao. Maria Ricci, 800 24 0024. Vi annuncio che abbiamo trovato uno che non guarda il classico, Ulisse, che ha scritto un SMS e ha detto 100.000 volte l'Inter. Meglio Sampdoria Inter, sempre, so, l'Inter, conosco, meglio del classico, conosco, ditemi voi cosa fate, eh? Ci fermiamo? GR, poi arriva per Luigi Pardo. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend, 800 24 0024, se becchiamo tra poco, Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 0024. Se avete notizie di Pierluigi Pardo, siete fateci pregati sapere di chiamare. Noi lo stiamo aspettando. Pardo, dove sei? Pierluigi Pardo, voi lo conoscete, no? Bello, abbastanza importante fisicamente. Avevamo appuntamento alle 18.05, qui sede Sole 24 Ore, Radio 24. Noi lo aspettiamo. Lo chiamo? Se sapete dov'è, per cortesia, chiamateci 800 24 0024, anche perché vogliamo sapere da Pierluigi Pardo questa sera cosa fa. Perché il nostro sondaggio su guardate il classico o le partite della Serie A sta prendendo piede. C'è chi dice che in realtà non vede né l'uno né l'altro, vede braccialetti rossi. C'è chi dice tutta la vita guardo Luigi, l'Inter. Ciao, aspetta che lo sto chiamando. Aspetta che lo sto chiamando. No, siamo in onda. Dove sei? Abbiamo Pier? Lanciato un chi l'ha visto. Arriva. Ti butto dentro. Buttiamolo dentro. Chiamiamolo. Buttiamolo dentro al telefono. E intanto buttiamo dentro un altro che questa sera non vedrà il classico. Oggi Ferrero ha fatto show. Ciao Ilaria, un po' che una palla a Madano, se ne ho messa. Ho voluto unire. Stasera io c'ho una partita. Sì. Una partita importante, sì. Gioco contro l'Inter. Sì. Che cos'è il calcio? Dobbiamo divertire. Dobbiamo. Lo dico a tutti. Non possiamo star lì tutti avvelenati come che lei. Sono Genova. Ma chi se ne frega? Com'è cambiata la tua vita da quando sei presidente della Sampdoria? Non è che facevo l'idraulico prima. No, certo. Anche se mi piacerebbe molto, perché così vado lì, con 100 euro, faccio vinte e cambio la vita. Ne faccio 10 al giorno e campo bene. Sì. Detto questo... Saranno contentissimi gli idraulici che ci stanno guardando. E questo è un privilegio. È la prima volta che parlo con te. Avevo una grande... E te che hai parlato per 20 anni con tutti, no? E adesso siamo tutti felici di avere. E il mister è più felice di me. Quanti anni ha? Chi? E tu? Ah, questo non lo so. Vediamo cosa vuol dire rosicare. È una cosa romana. Romana. Dove la morte ciò ci va in puzza. Ma ha detto Papa Francesco che puzza, non è uguale. No, ha detto spuzza. Spuzza. Ci va in puzza, ci rimane male. Allora non c'è sta rosicà. C'è una canzone. Certo. Stata rosicà. Questo Ferrero oggi, Ferrero che questa sera non guarda il classico, non guarda braccialetti rossi, non guarda nemmeno quello che vede Francesco da Mantova, che non posso dire perché siamo ancora in fascia protetta. Lui guarda Sampdoria Inter. Pier? Ma no, dovevo fare la gag, che ero tipo Manlio. Sì. Allora, abbiamo Manlio da Cologno Monzese. Sì, che... pronto. Notizie di Pardo? Prego, sì, Manlio. Guardi, l'ho visto, sta arrivando. L'ho visto a bordo di una macchia grigia, classica macchia grigia, sì. Sta arrivando. Questo ci consola. Vediamo se arriva prima lui o quell'altro ospite là. quello quale? Che è in macchina per andare a Coverciano, che poi dopo il traffico dobbiamo sentire. Certo. È una delle grandi sorprese di queste convocazioni. Oh, che fai stasera? A parte cosa fai fra 10 minuti, che devi essere qui, ma dopo cosa fai? Tra le 20:45 e le 23. Ma la cena con mia moglie. Sì, una come volta no. tanto. Ma la cena con mia moglie, se no mi uccide. Hai capito? No, io credo. Vamo che... una risata. Sì, no, ce la facciamo anche. Io un po' meno perché c'è Parma Torino. Cioè... Capuano guarda Parma Torino, ma ti pare il caso? Cioè... Parma Torino. Parma Torino, ti pare il caso? Fatta da risata, Capuano. Sì, rido, rido. Va bene, no, va bene, tranquillo, tranquillo. Però no, veramente va la cena, però chiaramente. Ma che cena, Pier? Come si fa ad andare a cena con Parma Torino? E poi arriverò alle 11 e cercherò di recuperare tutto quello che non sono riuscito a vedere. Sarà una tragedia, no? Però non posso dopo la settimana di 6-6 a lavorare, capisci, no? Se tu ci tieni alla mia vita coniugale, io ci tengo e quindi devo. Devo assolutamente fare così, però poi torno e recupero tutto, dai. Ma mettiamo che fossi stato libero da sacrosanti impegni. Parma Torino avresti detto il classico, dai. Zapping selvaggio fra diretta premium e classico. Zapping selvaggio? Sì. Un po' di classico, ma credo alla fine più diretta premium. Vedi che non, so, no, vedi che non sono l'unico. È una data bellissima, insomma, cioè, sono partite... ci sono Roma, Napoli e Lazio, Samp Inter, c'è Parma Torino sicuramente, però quella è una curiosità più che altro appunto ambientale, credo, no? Sì, no, è una domenica interessante questa, al di là di tutto noi ridiamo, però ad esempio mi viene in mente che questa è la domenica in cui ci sono allenatori messi sotto pressione, delusi, che devono cercare un riscatto. Ieri non è stato un sabato banale di parole, ad esempio per Garcia e Mancini, ve li faccio sentire. Io la mia visione è solo domani, perché adesso c'è solo una cosa da fare, è concentrarsi sulla partita più importante della stagione, che è la prossima. Dopo la sosta, la partita più importante della stagione sarà la prossima. A parte il dispiacere di tutti noi e il dispiacere dei tifosi quando si perde, quando si va fuori da una competizione europea, è chiaro che è tanto, però poi dopo 24 ore lo sconforto deve lasciare il posto a delle cose positive, ma non pensando al prossimo anno, perché poi uno dice il prossimo anno magari compriamo questo, però io credo che in questo momento ci sono ancora 11 partite da giocare e il campionato va fatto al massimo fino in fondo, perché poi con 33 punti a disposizione tutto è possibile, quindi noi dobbiamo cercare di fare il massimo del nostro meglio. Io sono qua per vincere dei trofei, non sarà per quest'anno, adesso è quasi sicuro, io voglio farlo nel futuro, dopo non c'è che c'è solo io che decide, c'è soprattutto il presidente e la dirigenza, per questo che faremo il bilancio alla fine della stagione. Io credo che l'Inter il prossimo anno possa lottare per il campionato, possa essere al vertice, perché potremo lavorare insieme, la preparazione che è fondamentale, sicuramente cambieranno, ci saranno dei giocatori nuovi che aiuteranno questi che sono qui adesso e potranno dare una mano. Questi Garcia e Mancini ieri, e perché questa è tra mille temi, Pier, la domenica in cui Inter e Roma cercano faticosamente di rialzarsi. Sì, proprio faticosamente mi sembra l'avverbio giusto, mentre intanto sono qui sotto alla 24, devo dare questa cosa per la cronaca. No, io sono abbastanza sorpreso dalla sorta di impunità e di innocenza che il popolo, davvero la curva, ha garantito a Garcia, nel senso che credo che anche lui abbia reso colpe, sinceramente non credo che possa essere considerato innocente, premesso che parliamo ovviamente della vita, ci sono stagioni migliori, stagioni peggiori, perché era. Però insomma le scelte le ha avallate anche lui, secondo me nel momento nel quale altre squadre hanno capito come giocava la Roma, poi si sono lottate e lui non è riuscito a far bene. Sì, che poi è un po' la stessa cosa successa in questi giorni tra Mancini e la curva dell'Inter, i tifosi dell'Inter. Nella lista dei colpevoli Mancini viene messo in fondo. Eppure i suoi errori li ha fatti anche lui. Sì, cioè io non vorrei passare per il mangio allenatori, per carità, però io credo che gli allenatori facciano la differenza e credo che questi due quest'anno abbiano fallito in maniera abbastanza evidente, abbastanza incontrovertibile. Su Mazzarri Mancini abbiamo parlato mille volte. La svolta non è mai arrivata, dai. No, non è solo una questione di numeri. 800 24 00 24, a proposito di numeri, noi siamo qui fino alle 19, adesso c'è il traffico, poi forse ritroveremo Pier presente, forse dopo il traffico, forse lo vediamo vivendo. Sono Papa Francesco e adesso vi racconto una bella barzelletta. Cosa fa Babbo Natale a Parma? Dona Doni. Tutti convocati. Non è ancora qui, ma ci dicono che sta arrivando. È come la volata della Milano-Sanremo. 800 24 00 24. C'è anche chi dice: gli arbitri nel dubbio danno rigori alla Juventus e al Milan, ma non al Genoa, perché oggi c'è stato anche il giallo di un paio di episodi all'interno dell'area di rigore allo Juventus Stadium. Non rigore per il Genoa, rigore per la Juve. Dubbio, quello per la Juve, ma tanto Tevez l'ha sbagliato. Beh, sì, insomma, si trascina un po' Pereira. Giacomo da Perugia, Giacomo. Giacomo da Perugia, Giacomo, non c'è. Ha ereditato il telefono di Pardo che sta entrando. Quindi facciamo la radio cronaca. Facciamo un applauso qui, Luigi Pardo. Applauso. Applauso a Pierluigi Pardo. In pieno orario, eccolo qui. E allora adesso possiamo anche chiamare quell'ospite là. Mi sembra, chiudendo poi il discorso su Mancini e Garcia, che soprattutto per Mancini questa sera sia Pier una finale senza ritorno. Sì, perché poi quel quinto sesto posto che vale l'Europa League è occupato proprio dalla Sampdoria e lì ha 8 punti, e quindi o stasera svolti o non svolti. No, più, ma sono finite tutte le finali senza ritorno, dai, facciamo i bravi. Beh, l'Inter che può fare, può faticosissimamente trovare un posto, un sesto posto, ma dovrebbe fare un capolavoro. Inter e Milan mi sembrano abbastanza sullo stesso piano da questo punto di vista. Hanno bisogno di fare un filotto incredibile di risultati per riuscire a centrare questo traguardo. Per quanto riguarda la Roma, invece, insomma, la Roma è nettamente più nel vivo, nel senso che ancora potenzialmente può arrivare seconda, anche se francamente mi sembra difficile, cioè dovrebbe cambiare completamente passo la stasera. Però insomma la Roma ha ancora una partita grossa da giocarsi davanti, in qualche modo Garcia è ancora artefice del suo destino. Il discorso di Mancini sulle 11 partite che mancano mi sembra un discorso alla fine abbastanza teorico. È il famoso discorso tristissimo, abbiamo sentito anche ieri Inzaghi. Mi fate salutare Mirko Valdifiori. Mirko, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. In viaggio per Coverciano. Ciao. Sì, sto preparando le cose. Stai preparando le borse, le valigie. Non mi sembra ancora vero, quindi adesso comunque tra poche ore sono là e quindi sarà sicuramente un'avventura fantastica. Ma quando è che l'hai saputo? Ieri sera ti hanno chiamato. Chi ti ha chiamato? Ma ieri sera mi ha messo al corrente della cosa il direttore insieme allo staff tecnico e poi dopo 10-20 minuti è uscita la notizia appunto su Sky. E quindi è stato anche bello perché dai, ero in ritiro con i miei compagni, quindi l'abbiamo condiviso tutti insieme questa bellissima notizia, perché non è solo la mia vittoria ma penso di tutta Empoli, quindi che sono proprio contento. I 25 chilometri più lunghi della tua vita questo viaggio. Sì, ma in bici, puoi andare in bicicletta quando vai a affrontare anche delle cose nuove che non hai mai visto, cose anche magari inaspettate, nel senso c'è sempre un po', non di tensione, però la curiosità di capire appunto come sarà, che ambiente sarà, e quindi non vedo l'ora di vivere queste emozioni che sono sicuro che saranno bellissime. Senti, tu ritieni di, insomma, di essere un bel segnale per tutti, stai facendo un campionato straordinario, di te si parla anche in chiave mercato, ma non è questo il momento per discutere di queste cose, però è un bel segnale che Conte abbia i riflettori accesi anche sull'Empoli, sulla provincia, su tutte quelle realtà che fanno giocare gli italiani, cosa che magari nelle grandi capita poco, pochissimo. Beh, in questo momento è stabilmente uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, quindi mancherebbe fosse così orbo da non vederlo. In passato non sempre è stato così, Mirko. No, guarda, io penso che io sono arrivato quest'anno con l'Empoli in Serie A, la visibilità che c'è in Serie B è nettamente inferiore rispetto a quella con in Serie A. Poi è ovvio che, come hai detto benissimo te, le parole di Conte, anche che mi ricordo che disse quando arrivò a fare allenatore della Nazionale, che lui guardava il campo e quindi magari anche giocatori che giocano nelle cosiddette non big, come posso essere io questa volta ad esempio, possono sempre dare il massimo sul campo per provare ad ambire appunto alla maglia della Nazionale, che per un giocatore penso sia la cosa più prestigiosa che gli possa accadere, quindi... Senti, il campo che guarda e fa piacere. Come saprai, si parla abbastanza di Sarri in giro, per vari motivi ovviamente. Ci racconti le sue qualità maggiori, che cosa ti ha dato, insomma, quanto c'è, com'è? Ecco, raccontaci com'è in allenamento e che cosa ti ha dato come giocatore, insomma, per arrivare a questa pienezza tecnica e di autostima che adesso hai. Sarri mi ha dato molto, nel senso, soprattutto mi ha trovato la collocazione in campo che magari riesce a esprimere al meglio le mie qualità. Ho la fortuna appunto che lui richiede un gioco basato sul partire dal portiere palla terra e alla ricerca magari del cosiddetto vertice basso, che in questo caso sarei io, quindi molti palloni passano lì da me, e quindi io mi è sempre piaciuto stare in mezzo del gioco. Ma poi soprattutto penso che il mister ne è bravo, cioè oltre che in campo è bravo anche al di fuori dal campo, perché riesce sempre a trasmetterci questa tranquillità nonostante appunto siamo una squadra quasi di tutti debuttanti, quindi non è facile andare in certi campi e avere la personalità, la determinazione giusta quando giochi magari per la prima volta a San Siro, all'Olimpico, allo Juventus Stadium, quindi lui già è bravo a trasmetterci questa cosa, e soprattutto si dice sempre appunto di fare il nostro calcio. Poi a volte quelle cose possono riuscire bene, alcune volte meno bene, però l'impronta sua l'ha data la squadra, e non è un caso. Ma provando a buttare via la maschera, lo vedresti in una grande squadra? Beh, io lo vedrei, nel senso, è ovvio che il mister è una persona che va seguita per i suoi metodi, per il suo fare calcio, quindi io lo vedrei proprio bene. Se trovo un gruppo appunto in una grande squadra che lo segue, può sicuramente fare grandi risultati anche in un grande club, perché oltre ad essere molto preparato è uno che cura molto anche il particolare, cura molto l'aspetto tattico, cioè vive 18 ore al giorno a guardare le partite degli altri, quindi prepara le partite al meglio. Sì, a mille schemi. Oggi abbiamo visto uno incredibile, Michelizze, che è entrato e dopo 3 secondi e 72 centesimi che era ripreso il gioco ha fatto gol. Schema provato in allenamento, giusto, no? Chiaro. Sì, noi proviamo molto il venerdì, ci dedichiamo un'oretta a questi schemi, sia da calcio piazzate, sia oggi è venuto. Cioè c'è Michelizze che aspetta fuori, poi entra e in 3 minuti, entro i 4 minuti deve segnare. 4 secondi, che 4 minuti? No, entro i 4 minuti. Avevamo preparato anche quella che entrava e dopo 3 secondi esatto. Faceva gol. Senti, ma adesso cioè, siete ancora scaramantici, 40 punti, la quota salvezza, oppure dai? Oggi penso che abbiamo fatto un leggero saltello, dai, sì, saltello. L'obiettivo finale, poi dopo è ovvio salto che con l'asta avete fatto. È ovvio che finché non le raggiungi uno non si può mai rilassare, però nel senso siamo avanti con i lavori, vediamo di fare questi ultimi punti prima possibile, che se dovesse arrivare appunto la salvezza 2-3 giornate d'anticipo ben venga, perché vuol dire appunto che daremo ulteriore pregio a un campionato che finora è stato straordinario. Senti, ma tu a Coverciano con che testa vai? Con quello che va lì per vedere l'effetto che fa, o è il primo test a un certo livello che poi magari ti può venire buono tra qualche mese quando si parlerà di mercato? Oggi l'ha detto anche Sarri, ha detto cioè, ci sarà modo di valorizzarlo sul mercato e non c'è niente da nascondere, insomma. Tu con che testa vai a Coverciano? Ma io vado con tanto entusiasmo, con tanta voglia di dimostrare anche in nazionale, perché se magari mi ha chiamato Conte vuol dire che magari ci punta anche su di me, quindi non è che vado lì per fare la classica gita di 9 giorni. Sicuramente, ripeto, arriverò con la massima umiltà, mi metterò a disposizione, cercherò di capire e imparare da grandi giocatori che magari sono abituati già a giocare a partite a livello internazionale, e poi dopo è ovvio che una volta che uno si allena e va in campo cerca di giocarsi le proprie carte. Però ti ripeto, già per me essere lì ci sarà sicuramente solo da imparare. Grazie Mirko, ciao, ciao. Bocca al lupo. Grazie. Complimenti, crepi il lupo, non mollare, andiamo a vincere, no. Grazissimo. Dove sei arrivato? Dove sei adesso? Geolocalizzati. No, ma sta facendo le borse a casa sua. Le borse, ma punzonatura. Manda un messaggio, mandaci un messaggio. Non è che deve partire molto prima per arrivare a Corigliano entro mezzanotte. Grazie Mirko, ciao. Grazie a voi, grazie. Prossimamente sugli schermi della nostra nazionale Mirko Valdifiori. Poi c'è, la squadra. Poi c'è anche chi non lo so dove vada, magari va con Sarri, perché di solito poi gli allenatori si portano dietro l'uomo. Beh, lui sembra un fedelissimo, eh? Sì. Sembra un fedelissimo, cioè sembra un giocatore di quelli che eventualmente Sarri, in un'esperienza che magari non potrà anche non essere il Milan, ma insomma c'è la possibilità che Sarri possa crescere comunque, no? Possa quantomeno ambire a una squadra, diciamo, di fascia media, di tradizione media, con tutto rispetto per l'Empoli ovviamente. Insomma, Valdifiori sembra uno di quelli adatto, no? Per, anche perché nel vivo, no? È un 86, un giocatore insomma 28. Nel pieno della sua maturità. Sì, poi a me piacciono un po' meno le altre due convocazioni, quella di Eder e quella di Vázquez, un argentino e un brasiliano. Vabbè, ma oggi ho letto che Conte era preoccupato che la sua nazionale passasse poi a storia per essere la nazionale degli oriundi, non lo so. Restano a casa Balotelli e Santon, ad esempio. Santon probabilmente ci si poteva fare un pensierino. Balotelli credo che sia la conferma che il feeling con Conte non è scattato. 8-0 non sta facendo niente, di così eclatante per potersela meritare, dai. Sì, c'è anche qualcun altro, credo Cerci, no? Sia stato convocato, sta facendo collezione di panchine lì, poi è sempre opinabile, un CT chiama chi vuole, a prescindere da quanto però, viene. Però secondo me la notizia, con tutto l'affetto per Alessio Cerci, è che venga convocato Cerci, non che non venga è più sorprendente questo. Certamente. La tra virgolette l'anomalia è quella, insomma Balotelli convocato oggi mi avrebbe sorpreso sinceramente. Riusciamo a fare Ennio da Padova. Ennio, sì, ciao. Eccoci, ragazzi, buonasera. Ciao, senti, come va? Tutto bene? Alla grande, Ennio. Tu? Alla grande. Ma Parenzo lo conosci? Parenzo si vede da Padova ogni tanto pure? Io conosco. Bravo. Vieni al Vinitali martedì, che siamo al Vinitali? Ah sì? A Verona? Potrebbe anche essere che vengo. Siamo lì, prima arrivi e più ci trovi lucidi, ecco, diciamo, ecco. Quindi fai presto, per favore. Allora, mi sbrigo in fretta. Allora, primo, non so se parla un'altra lingua, perché quando parla al telefono non è che si capisce molto quello che no, dice. No, ma è il telefono. Beh, migliorato però rispetto a no. Infatti stavo pensando di fare una colletta per regalargli un telefono. Ma no, ma è il più figo di tutti il problema. Forse andare su quelli. Senti, volevo dirti, è possibile fare un'analisi, diciamo, parlare, non so, di Berlusconi e di Galliani senza passare per disfattisti, come dice Galliani, o senza passare per i riconoscenti? Se ce la fai prima del meteo, sì, altrimenti ti dobbiamo salutare. Prego. Ci provo. Senti, allora, se uno con tutta la buona volontà è stato bravo giocando, a un certo punto ti accorgi che non ti arriva più, che non è più lucido, è possibile contestarlo, criticarlo oppure no? Cioè, voglio dire, gli ultimi anni non ne hanno imbroccata una, l'ultima è destro, per dirti, l'ultima è destro, che abbiamo un centravanti che 2 anni che non fanno giocare perché dice che non è secondo gli schemi del Milan, e prendono destro che è uguale a Pazzini, che hanno lo stesso identico tipo di gioco, che sembra una cosa lucida. Sì, no, però mi sembra che lì l'errore Ennio stia a monte, cioè di chi pensa di costruire una squadra senza un centravanti, non tanto di chi porta un 23enne che segna un gol a partita e magari si aspetta anche che gli venga creato uno straccio di schema intorno. Perché poi, ripeto, è il podio delle responsabilità del disastro del Milan. Io non ci metto certamente in testa Galliani, magari ci sta su quel podio, però non credo sia l'unico. Ci fermiamo, torniamo subito dopo. Tutti convocati. Lorenzo da Firenze. Lorenzo. Lorenzo, che fa, Lorenzo? Niente, Fabio da Roma, Fabio. Fabio. Voglio sapere cosa fa Lorenzo. E dopo lo riagganciamo. Fabio, prego, Fabio. Fabio, prego. Eccomi. Senta, io volevo tornare, giusto un momento, un po' di ritorno, però volevo tornare sulla trasmissione di venerdì scorso. Sì. Nella quale ha telefonato, giusto in zona Cesarini, un tifoso juventino che metteva a paragone i tifosi romanisti con quelli del Borussia Dortmund. A suo modo di dire, molto più signorili, perché dopo il 3-0 con la Juve non avevano contestato la squadra. Sì. Scusi se ogni tanto faccio delle pause, ma ho una forte eco. Sì. Prego. Ecco, a conclusione di questa cosa, lei, Genta, ha detto una frase che mi ha lasciato piuttosto esterrefatto, dicendo, certo, i tifosi del Borussia e il Borussia non sono i tifosi della Roma e la Roma. E con questo si è chiusa la trasmissione. Non so che cosa volesse intendere. Adesso glielo facciamo spiegare. Anche perché, Carlo Genta si concludo, spiega. Concludo solo con un'osservazione. Quegli stessi tifosi del Borussia, non più tardi del 6 febbraio scorso, hanno messo in scena la medesima scena. Sì. Quasi la medesima scena, Fabio, perché non risulta che nessuno abbia detto ai giocatori del Borussia: ti veniamo a prendere a casa se ti supera la Lazio, insomma lo Schalke 04 e cose simili. Ancora non si sapevano. Insomma, qualcosina si era letto. Comunque, adesso sentiamo l'interpretazione, l'esegesi di Carlo Genta, fatta da Carlo Genta. Io semplicemente facevo riferimento all'atteggiamento di Klopp, che non ha perso un secondo per fare i complimenti agli avversari e dire che la sconfitta era meritata e non c'era nulla da dire. La società Borussia Dortmund ha immediatamente inviato un tweet di bocca al lupo alla Juventus, e i tifosi della Roma gli ultra della Roma si sono resi protagonisti di un'altra pagina orripilante del nostro calcio, perché non venitemi a dire che non è una questione solo di Roma, perché non è una questione solo di Roma, dell'Inter, io su orripilante sono un po' eccessivo. È stata una contestazione, il pubblico processo in televisione, non si fa. Detto questo, è stato, grazie a Dio, ci mancherebbe altro, non c'è stata violenza, e ripeto, lo dico, chiaro, c'è anche ovvio. Anche la violenza verbale, dire se ti fai superare dalla Lazio, guarda che ti veniamo a prendere, esiste nessun lavoro del mondo dove tu sei obbligato, scortato dalla Digos, ad andare a prenderti insulti e minacce, e va bene così. No, ma sono d'accordo. Il fatto che poi, soprattutto, che un calciatore perda apposta è un concetto, secondo me, che è sbagliato. Cioè, quello che i tifosi devono sapere è che nessuno perde apposta, a parte casi patologici che abbiamo scoperto, ma lì c'entra la magistratura. Ma una squadra, in questo momento i giocatori della Roma, non fosse altro che per quieto vivere, oltre che per il loro amor proprio, vorrebbero avere 10 punti in più in classifica, non è che sono felici di pareggiare o di perdere le partite, per cui se sono in difficoltà sono in difficoltà, e i tifosi, nei limiti del possibile, dovrebbero provare ad aiutarli. Dico che, facendo una valutazione complessiva del comportamento generale dei tifosi della Roma in questa stagione, secondo me è stato un comportamento molto conciliante in alcune circostanze. Ci sono stati gli applausi dopo il 7-1 col Bayern, c'è stato comunque un atteggiamento molto vicino alla squadra, di grande entusiasmo. L'altra sera sicuramente c'è stata una contestazione, la scena è brutta, sono d'accordissimo con voi, la scena è brutta. L'idea che era successo anche ad altre squadre, che i giocatori a fine partita debbano andare lì a chiedere scusa in ginocchio di fronte a questi padroni, abbiamo visto di molto peggio nella storia del calcio italiano. Non è che questo sia consolatorio, assolutamente, però la crisi che sta attraversando la Roma è una crisi, non è una crisi banale. Cioè, non è che la Roma ha fatto due pareggi, la Roma in 2 mesi e mezzo è crollata in una maniera che non ha precedenti recenti della storia del calcio italiano. Chi c'è? Andro Mercu? Pronto? Buonasera. Chi è? A proposito di tifosi che contestano. Presidente. Io ve l'avevo detto, ma voi... Cosa ce l'avevo? Io ve l'avevo detto. Ma noi? Quando il venerdì io vengo a Milanello a discutere della formazione, a dare la formazione, diciamo, a discutere, Pardole sempre nella marcia. Sì. La formazione più adeguata alla nostra organizzazione di gioco ecco che le cose funzionano. Sì, ma a me non risulta che Berlusconi sia andato venerdì a Milanello, presidente. Io ve l'avevo detto. Quindi non ha nessun merito nella vittoria del Milan di ieri sera. Cosa vi avevo detto, Capuano? Facciamo informazione, diciamo. Esatto. Berlusconi non è andato a Milanello venerdì. Non è andato, presidente, non è andato. Però cosa vi avevo detto? Avevo detto che la zona Champions non era un sogno. Che abbiamo espresso un'ottima organizzazione di gioco nel contesto di un gruppo coeso e molto poca gente ieri a San Siro, presidente, poca gente ieri a San Siro, poca gente. Hanno scioperato, ce l'hanno con lei, ce l'hanno con Gagliani. Gremiti al limite della capienza, il pubblico ha risposto alla grande, senza contare che la squadra ha combattuto per l'ennesima volta contro evidenti torti arbitrali. Purtroppo una classe arbitrale comunista. Ma presidente, Tagliavento va dato un rigore che è un metro fuori area. Non sento, presidente. Dicevo, grande serata. E infine concedetemi, caro Pardo, due parole su Pippo. La sua panchina che voleva mandare via la settimana scorsa non è mai stata in discussione. Inzaghi lavori nella massima serenità. Abbiamo completa fiducia nei suoi confronti. Scusate, mi sta squillando l'altro cellulare e di solito mi chiamano le oggettine. Un attimo. Invece chi la chiama? Pronto? Sì. Sinisha! Tranquillo, Pippo! Presidente! Tranquillissimo. Hai sentito cosa ha detto ieri Mihajlovic? Ha detto, beh certo, se il mio nome viene accostato al Milan, è un piacere. Ha detto anche che fino a due anni fa non avrebbe risposto uguale, però si è stufato di aspettare l'Inter e la Lazio. Non può star lì. Sta facendo benissimo e si merita una chiamata di altissimo livello. A me sembra che per caratteristiche il Milan abbia nel pantheon, diciamo, filosofico degli allenatori da Milan ce ne siano altri più adatti, tipo Montella. Nel senso, Mihajlovic mi sembra più un allenatore da lotta, da guerra, da insomma, con un'idea di calcio più lottato che giocato, anche se sta giocando benissimo. Però hai un'idea di come possa essere il Milan prossimo 21? Non ho un'idea, però non solo il nostro. È chiaro poi che serve tutto. Al Milan di oggi serve non soltanto recuperare la qualità tecnica, serve anche trovare un livello di aggressività in campo che Mihajlovic magari ti può dare di più. Però insomma, mi sembra più adatto al Napoli, mi sembra più adatto eventualmente qualora vada via Benitez. Però magari, io penso, da quello che so, il Milan sta facendo sondaggi con 5-6 allenatori. Sì, ho l'impressione che siamo alle primarie. Vediamo se c'è Lorenzo da Firenze. Lorenzo? Sì. Cosa stava facendo? Eccoci prima qua. Sì, buonasera. Che stava facendo prima? Che abbiamo provato facendo delle cose. Le sue cose? Cioè, hai voglia di intervenire? Si può fare? A me mi scappa di parlare dell'Inter. Sì, prego. Insomma, siamo qui. E di quel fenomeno di Mancini. Sì. Perché secondo me Mancini andrebbe mandato via per direttissima. Sì, e andrebbe, secondo me, chiesta anche le scuse di Mazzarri, a Mazzarri, perché dopo che l'Inter ha preso, mi sembra, 3 o 4 giocatori, ha speso dei gran soldi per rinforzare, giusto? Adesso sta facendo schifo, ha perso anche l'Europa League e forse è sesto, mi pare, in campionato. E adesso Moratti, secondo me Moratti, dopo quello che ha detto, dovrebbe chiedere delle scuse a Mazzarri, perché l'hanno trattato secondo me come una specie di delinquente. Mazzarri l'hanno trattato male. Io andrei un po' più morbido su Mancini, poi i numeri sono lì. E guarda, questa è l'ultima trasmissione che puoi criticare su quello che è stato detto del cambio tra Mazzarri e Mancini. Però insomma, Mancini, io credo che giustamente poi quest'estate costruirà una preparazione, una squadra, e vediamo. Lui ancora ieri ha detto, io ho la certezza che l'anno prossimo l'Inter giocherà al vertice per lo scudetto. Io questa certezza non ce l'ho, mi sembra che il gap sia alto. È in campagna elettorale permanente Mancini, però, ma fa bene, cioè, voglio dire, io non penso che lui sia in campagna elettorale perché ci sta marciando. Io penso che lui sia in campagna elettorale perché lui ha voluto, dall'alto della sua esperienza e dei suoi successi, risvegliare una certa idea di orgoglio nei tifosi dell'Inter, che erano usciti a pezzi dall'esperienza Mazzarri. Scusa, il problema è il campo. Pier, cosa deve dire? Cioè, dal punto di vista filosofico, non può dire l'Inter l'anno prossimo lotterà per l'Europa. Vabbè, però è arrivato e ha detto potremo andare in Champions attraverso la vittoria in Europa League. Ha sempre, insomma, ha sempre alzato molto l'asticella. Ha detto sono sicuro l'anno prossimo l'Inter lotterà per lo scudetto. La frase, insomma, è forte per quella che è la situazione oggi e la compattezza della Juve, non fosse altro proprio che per la forza della Juve. Cioè, io non so chi potrà competere l'anno prossimo con la Juve, poi magari le cose cambiano, però insomma è una cosa forte da sentir dire dal Napoli, dalla Roma, dalla Lazio, figuriamoci dall'Inter che è ancora più lontana. Sì, quindi finirà 30-40 punti, più 40 che 30, però insomma sono d'accordo con l'ascoltatore, poi in campo si è visto poco. Tutti convocati. Al momento che dico che noi siamo assolutamente convinti di poter fare grandi cose, siamo assolutamente convinti che sarà difficile, ma è possibile che noi proviamo a vincere tutte le prossime partite, è inevitabile che vogliamo essere ambiziosi. Oh, ecco un altro che vuole vincere tutte le prossime partite, però questo è Stefano Pioli, qualche motivo ce l'ha. Le sta vincendo. Le sta vincendo. Differenza questa, esatto, rispetto a prima abbiamo sentito Inzaghi, abbiamo sentito Mancini, adesso sentiamo Sebino Nela, ciao Sebino. Eccoci, ciao a tutti. Ciao Sebinas, 400 presenze in Serie A. C'è il tardo, a tutte le volte. Devi dire, 400 presenze, tanto che intervenì a tutti i convocati, è una cosa incredibile. Che piacere. Come va? Sei a Cesena? Sono a Cesena, sì. Sei. Quanto rischia la Roma stasera? Mamma mia. Sebino, Tanto. Tantissimo. Cioè, possiamo svegliarci domani mattina, noi che vediamo il classico, potremmo svegliarci con la Lazio che ha già scavalcato la Roma. Questo è un po' la sintesi. Questa è una cosa terribile per la tre quarti di Roma giallorossa, naturalmente. La tre quarti, quindi tu dai pesco. No, sei questo stato attento. Lo giriamo agli amici che ci ascoltano e che fanno parte dell'altro quarto. Tre quarti, sì, credo di non sbagliare. Rischia più la Roma in questa serata tra quelle che fanno la volata, diciamo, per il secondo, terzo, quarto, quinto, certo. Sesto, poi vediamo. Certo, ma non gli avversari, devo dire, per tutte, per il Napoli, per la Lazio, per la Roma, possiamo dire insomma che si equivalgono. Il problema è il periodo negativo che sta attraversando la Roma, a differenza del buonissimo momento della Lazio e del momento così e così, possiamo dire, del Napoli. Quindi certamente la Roma è quella che rischia di più, anche perché poi una volta che dovesse andare male questa sera non c'è più neanche il paracadute di dire vabbè, però fate i bravi perché siamo sempre secondi, perché a quel punto lì ci sarebbe stato un sorpasso. Ma alla fine comunque, anche se dovesse andare male stasera, rimani in corsa. Sono d'accordo con Garcia quando dice che prima o poi questi periodi finiscono, insomma questo è un periodo, devo dire, piuttosto lungo. Anch'io ho passato dei momenti brutti quando ho giocato, però non sono durati così a lungo, ecco. Che idea ti sei fatto? Mi spieghi che è successo? Domanda facile, Sinceramente non lo so. Devo riconoscere che la Juve è la squadra più forte d'Italia. Probabilmente non è necessario spendere 100, 150 o 300 milioni sul mercato, perché poi i giocatori sì, sono fatti di gambe, sono fatti di piede, ma ci vuole, credo, anche personalità quando arrivano momenti come questi, personalità a subire e a contrastare, anche se vogliamo, le contestazioni dei tifosi. Insomma, un calciatore è fatto di molte cose e a volte insomma magari si può spendere anche qualcosa in meno, ma ti ritrovi un uomo, perché il calciatore comunque di fatto è una persona che sa reagire e dovrebbe reagire, e probabilmente molte squadre insieme alla Roma, ne posso elencare altre, possiamo metterci l'Inter, possiamo metterci il Milan, insomma tutte quelle squadre, il Napoli stesso, perché Benitez si è lamentato spessissimo del suo gruppo anche ultimamente. Ecco, la personalità credo che sia un fattore importante, quantomeno importante. Nella Roma attuale ce n'è poca? Ma non lo so, sai, quando ci sono questi momenti, Pier, ti aspetti che quelli più bravi, quelli di esperienza, come succedeva a me nella mia Roma, tornando indietro di moltissimi anni, insomma, sono quelli che dovrebbero tirarti un po' fuori da queste da queste situazioni. Probabilmente alla Roma questo non riesce, non so se ci sono questo tipo di calciatori, di giocatori, ma di fatto questo, insomma, i giocatori migliori, i giocatori con più esperienza dovrebbero essere loro, insomma, a portarsi tutti dietro e uscire da queste situazioni. Secondo te la Lazio ha davvero le gambe, la testa per arrivare fino in fondo a giocarsi anche il secondo posto, o è il momento migliore della stagione? Abbiamo tutti negli occhi oggi Felipe Anderson, ma la Lazio è stata anche altro nelle varie fasi di questo campionato. La Lazio sicuramente sta facendo molto bene, sta godendo dell'esplosione di alcuni giocatori, uno su tutto adesso il giocatore del momento che è Felipe Anderson, ma di fatto, se vogliamo, questo campionato per il secondo posto, secondo, terzo, no, che vogliamo, decidiamo noi, insomma, è regalato da dagli scarsi risultati, se vogliamo, di Roma e Napoli. Ha fatto sì che, insomma, altre squadre si possano inserire in questa volata finale. Sì, perché se loro avessero corso come da pronostico, probabilmente oggi staremmo raccontando, esatto, diciamo, che Roma e Napoli un campionato diverso. Ti posso girare la domanda di un amico che ha scritto il grado di responsabilità di Sabatini, che poi si è automesso alla gogna? Ma Sabatini è meraviglioso perché si prende le responsabilità, perché ci mette la faccia, perché si prende, come diciamo noi, tutta la rumenta, noi genovesi chiaramente. La rumenta, tutta la spazzatura che la gente può tirare addosso in momenti come questo. Fare direttore non è facile, si sbaglia anche naturalmente quando si fa un mercato. Di fatto la Roma non ha tratto giovamento dal mercato di gennaio, che era quello che doveva dare qualcosa in più. Ha perso due giocatori importanti per la Coppa d'Africa, era il momento, insomma, che qualche acquisto potesse aiutare questa squadra. Questo non è avvenuto e in questo momento gli si rinfaccia questo, però sfido chiunque. E la società non c'è. Il direttore sportivo che non abbia mai sbagliato. No, ma non c'è, però non c'è la società. Io vorrei anche lanciare un sondaggio su chi cambierebbe Branca e Sabatini, perché poi si è fatto anche il nome di Branca come eventuale prossimo direttore dell'area tecnica della Roma. Serve uno sopra Sabatini. Trova subito 10 squadre che lo sono pigliate. Magari ve lo lascio per domani. Grazie Sebino. Ciao Sebi, ciao. Grazie Sebino Nera, magari lo lascio per domani. Sondaggio: quale tifoso di quale squadra qualsiasi cambierebbe Sabatini con Branca? Non lo so. Sabatini io piglio subito. Se avete voglia di risponderci. Serve uno sopra Sabatini. Manca il presidente. Manca la società. Abbiamo finito. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Filippo Aureggi in regia. Andromercu, che è già al Vinitaly. Voi lo raggiungete a partire da domani sera. Domani invece ci siete dopo il GR delle 14. Domani ci siete dopo il GR delle 14. Ciao, noi ciao, domenica ciao. Alle 17, sì, come sì. No, alle 7 e mezza, sì, alle 9 classico, per partire. Classico, ciao. Classico e Parma Torino. Vai. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega tutto. Sì. Voglio una vita che non è mai tardi di quelli che dormono e non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai.